Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Questo azzimato damerino d'antan, a me sembra di ricordarlo. Io l'ho già visto in treno, ma sì, come no. È un signore strano, singolare, che ha vissuto mille vite. È il signor Luigi che ha fatto l'agente marittimo, il camionista in Africa orientale, ha fatto il mercenario in Congo. Il padre, ricordo, morì in Africa in circostanze tragiche e lui da allora ha fatto una grande battaglia fino a che è riuscito a portare le ceneri in Italia. Beh, non posso fare a meno che rubarmi qualche altro pezzetto della vita di questo elegantone che incontro nel treno. Io vorrei complimentarmi con signoria vostra, perché lei ha una memoria di acciaio. Beh, mica tanto, sono un po' rincoglionito, però... Per ricordarsi di me, che... Sì, sì, beh, ma nel mio lavoro almeno cerco di tenere a mente le persone con cui ho a che fare. Noi ci eravamo già incontrati nel treno tempo fa. Ma ci siamo incontrati 2 anni fa. Vabbè, 2 anni non è che poi sia un periodo enorme. Ho la mente un po' appannata, ma 2 anni ci arrivo ancora, ecco. 20 non lo so. Ma quanti ne sente al giorno lei, scusi? Eh sì, però siamo abituati a sentirli, ma ci rimane sempre qualcosa delle persone che incontriamo, se no è il nostro patrimonio. Il nostro patrimonio sono le persone con cui parliamo. Perché guardi, è incredibile questo. Io non ricordo stupidate, eccetera. Ho un repertorio musicale di 200 canzoni, le ricordo tutte. Vabbè, questo è già tanto. Questo è già tanto. Vuol dire che ognuno ricorda quello che le è utile. Lei gli è utile ricordare le canzoni, a me è indispensabile ricordare le persone che incontro. La mia vita si svolge. Io non fumo, non bevo e la terza cosa lì non la diciamo in pubblico e poi suono la cornetta, la tromba e faccio musica. Lei non tromba ma suona la tromba, diciamo. Allora se si può, sì. No, la terza cosa è anche quella. E poi adesso c'è il grande aiuto delle pillole, perché io non è che abbia 20 anni, Oh, vabbè, il supporto chimico mica è le pillole aiutano molto. Va bene, detto questo, diciamo, la sua vita mi sembra di ricordare che sia stata una vita molto movimentata. Ma sa, la mia vita è stata quello che è stata. Sì, ho viaggiato molto. Lei già dagli anni 50 mi pare che viaggiasse molto, stava in Africa Io ero in Africa orientale, sì, avevo 5 anni quando arrivarono i bombardamenti. La differenza tra la guerra di adesso e di quella è che lì c'era la sirena che diceva tutti al rifugio, tutti al rifugio, tutti al rifugio. Invece la guerra di adesso si va all'ospedale e non c'è il preavviso. E quindi cosa si ricorda di quel periodo? Perché noi racconteremo delle nostre emozioni una vita abbastanza lineare, tranquilla, degli ultimi 70 anni, ecco. Ma lei invece cosa c'aveva da raccontare? Cos'è che io ricordo tutto e non riesco. Adesso, guardi, sto trattando, io ho la patente nautica. Uh-huh. Sto trattando una barca a vela perché detesto i motori, e per rifare viaggio Ostia, Port Said, Suez, Massaua e riapprodare dove diciamo ho vissuto 20 anni e dove più che altro per andare a vedere dove è stato assassinato mio papà. Le faccio una parentesi, ho scritto al Presidente della Repubblica una settimana fa che è giusto ricordare le foibe, per carità, e onore a tutti, però è anche giusto ricordare gli 800.000 italiani massacrati dal terrorismo locale in Somalia e in Eritrea. Ma in che anni? Lei parla in che anni? Io parlo dagli anni 48, 53, 54. Mio padre è stato il terzultimo ad essere vittima. Ma già dopo, ancora dopo la guerra succedeva, sì, questo? Sì, in tempo di pace. Ma perché durante la guerra eravamo delle truppe d'invasione. Un attimo. Poteva chiamarsi resistenza quella, allora, resistenza all'invasione. Nicoletti, però lì eravamo una sacca di 80.000 e c'era tutto l'interesse di... Io sono profugo, quindi noi siamo 80.000 profughi. Ancora qualcuno sopravvissuto che trovo su Facebook. Ma dall'Africa orientale le parla? Africa orientale, sì signore. Cioè italiani che erano andati nelle colonie, erano colonizzatori, poi a un certo punto sono tornati. Italiani che aveva mandato giù Mussolini. Lei quando è rientrato in Italia? Nel 66. Per me la guerra era finita e sì, non c'era... Sì, sì, sì. Però ci avevano messo troppo... E la paura, sa che... E cosa si ricorda di quegli ultimi anni prima di rientrare in Italia? Quali sono stati i motivi? Negli ultimi anni io ero agente facente funzioni dell'OIT, destino di navigazione, e ricordo anni molto belli perché navigavo e andavo, certo, anche ricordi amari perché in India quando facevamo scalo bombe vedevo la gente morire sui marciapiedi, e in Cina, quindi sono testimone oculare, vedevo nei mercati topi scuoiati, gatti scuoiati e i cinesi che mangiavano la carne cruda senza nessuna cautela igienica. Lei dice già da allora ci poteva essere dei rischi di incontrare dei virus. Poi io le raccontai in un'altra intervista ciò che vidi in un night club come sadismo. that we once made, we once made. They fade away, they Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Aiutiamo. Il Sole 24 Ore, insieme a Radio 24 e Radio Cor, sostiene le strutture ospedaliere sul territorio impegnate nell'affrontare l'emergenza coronavirus. L'ospedale di Bergamo ha bisogno di te e per noi è la notizia più importante di oggi. L'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, con i suoi medici e tutto il suo personale, stanno lavorando senza sosta per fronteggiare il Covid-19. Aiuta anche tu con una donazione straordinaria per affrontare tempestivamente questa emergenza. Hashtag Sole per Ospedale Bergamo. Per tutte le info, s24ore.it/aiutiamo. Il treno va. I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Una cosa atroce mi racconta, è uno spettacolo atroce. Che anno era innanzitutto? Era fine anni 50, 58-60. Ah, relativamente recente, già in periodo di dopoguerra. Dov'era esattamente questo posto? Era lì dove facevamo scalo con le navi cargo, che andavamo a caricare in India, si chiamavano Utah Bags, e quindi lì il porto in Cina, non so se era Shanghai o che porto era, scendevamo per andare da bordo. Quando si arriva in un porto, la prima cosa che si pensa è di scendere a terra, no? Andare nei night. Dopo essere stati settimane o anche mesi in navigazione solo con marinai, uno ha voglia di cambiare un po' aria, certo. Ma è proprio una cultura di chi naviga, di arrivare in porto e scendere a terra. In primis per il famoso... E che quello che ha insegnato l'Arsaman di Ovidio, no? E vai a cercare, come diceva prima lei, non mi ricordo, e si va subito a terra per quello. Questo è molto senza ricorrere, diciamo, ai lirici del passato. Vanno perché hanno bisogno di incontrare delle persone che gli sono mancate durante il viaggio. Ecco, in questo caso lei è andato in un locale. Dov'era esattamente il locale? Era sicuramente. Guardi, io faccio una parentesi, ho cercato anche perché trovai una signora che scrisse un libro su questi episodi e non riuscii a trovare più questo libro. E sicuramente era all'interno del porto dove facevamo scalo, ripeto, non ricordo se era Shanghai o cosa era. Era un nightclub. E andavamo lì e le dico i cinesi che applaudivano a questa scena, io gliela raccontai. E qual era la scena? Cioè, la scena io gliela raccontai, in pratica era, loro tenevano dei ratti digiuni per una settimana per affamarli, dopodiché a un certo punto della serata si spegnevano le luci, scendeva una rete dall'alto con dentro una donna che per forza di cose era diciamo in posizione, come dire, semifetale, e quindi scendendo in questa cassa di ratti offriva proprio, come dire, il lato B, e i ratti, sentendo l'odore, si buttavano per in sintesi se la mangiavano a morsi, se la mordevano. Allora a un certo punto sta donna poveraccia tutta sanguinante, poi la riportava, finito lo spettacolo la portavano via, non so più che fine facesse. Sì, ma è una cosa atroce, praticamente veniva divorata, cioè morsa dai ratti. Guardi, dottor Nicoletti, io nella vita non ho mai visto un sadismo come questo. Cioè, ma una cosa incredibile, cioè facendo mangiare una donna dei topi come spettacolo negli anni 60. Sì. Le feci, loro dalla fame attaccavano le feci e da lì cioè gli entrano nell'intestino praticamente, una cosa incredibile. Proprio entrare no, ma la mordevano, comunque la mangiavano nelle zone intime, dai, non voglio entrare in parte, approccio soltanto a immaginarla la cosa. Ma questa donna moriva alla fine dopo questa cosa terribile? Questo non lo so, se lei ricorda. Beh, non credo che uno rimane in vita mordicchiato nelle proprie mucose da dei ratti, sinceramente. Beh, una cosa, io posso solo sperare, come estremo tentativo di immaginare un fine diverso, che fosse tutta una simulazione, fosse sangue finto, questa donna fosse una brava attrice. No, assolutamente non è sicuro. No. Assolutamente. Quindi è un atto di tortura sadica e di uccisione di una persona. È un'espressione proprio sadica. Il pubblico acclamava. Acclamava, sì. Sono questa testimone oculare, signor dottore. No, non ho motivo di dubitarlo. Era uno spettacolo estremo, probabilmente, quelle estremo, cose soltanto, sì, soltanto nei film sadici e di orrore uno pensa che possano immaginare. Sì, lei. Beh, uno che assiste a cose onda del genere se lo porta dietro tutta la vita, penso, perché è impossibile. Guardi, sono cose come anche ci sono cose nella vita che rimangono, come l'agonia di mio padre in Africa orientale. E non potrò mai più dimenticarla. Perché suo padre cosa era successo? Com'era morto? Mio padre era perito chimico, e questo che io scrissi al signor Presidente della Repubblica, che insieme a mio padre ci fu un massacro di circa un migliaio di italiani in Somalia, a Mogadiscio, davanti il sacrato della chiesa, una domenica i fedeli che uscivano furono mitragliati. Sulla domenica del Corriere io ricordo che apparse anche una cosa di Walter Molino, si chiamava. Sì, era l'illustratore insieme a Beltram della domenica del Corriere, si alternavano in epoche diverse. E quindi ho scritto al signor Presidente: va bene le foibe, ma cerchiamo di ricordare anche tutti questi italiani, incluso mio padre. Ma suo padre fu anche lui, colpito in quell'occasione? Sì, fu assassinato sulla strada da Asmara di Nefas, sì. Anno, ricorda? È 31 luglio 1953. Ecco, 50, l'anno prima che nascessi io, quindi siamo già in periodo in cui erano finite le ostilità. Sì, era periodo di pace, ma avevano tutto l'interesse, non so se c'era ancora amministrazione inglese, ecco, qui devo fare una nota che io la prego veramente, noi dobbiamo la vita, 200.000 italiani devono la vita a Sua Maestà l'Imperatore Haile Selassie, che nel 41, tornato dall'esilio, disse: non toccate un capello a un italiano. C'erano pronte tutte le tribù galla, che il loro culto è quello di evirare, e fummo tutti, noi dobbiamo, 200.000 di noi devono tutti la vita a Sua Maestà, a Haile Selassie. I read the news today, oh boy, yeah, about a lucky man who made the grade. And though the news was rather sad, well, I saw the photograph, I just had to laugh. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people, they turned away. They'd seen his face before. Nobody was really sure that he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people, they stopped and stared. But I just had to look, having read. My way downstairs, I drank a cup, and looking up, I noticed I was late. Grabbed my coat and grabbed my hat. I made the bus in seconds flat. On my way upstairs, I had a smoke. Somebody spoke, and I went into a dream. Today, oh boy, 4,000 holes in black and Lancashire. And though the holes, they were kind of small, they had to count them all. Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall. Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco. Allora, il mattino all'oro in... Ah, dai, troppo banale. Il buongiorno si vede dal... No, questa è anche peggio. Che roba è? Cambiamo registro. 24 Mattino vi aspetta con chiarezza per districarsi in un mondo complesso, obiettività perché il giusto confronto tra opinioni non macchi la realtà dei fatti e serietà, senza rinunciare alla giusta dose di ironia. Ah, certo, e senza frasi fatte. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con tutto quello che serve per sapere cosa si muove nel paese e fuori, analizzarlo e capirlo. Con me ci saranno Paolo Mieri dalle 7.30 nella rassegna stampa e Maria Latella dalle 8.15. Vi aspetto alla rassegna stampa per commentare con voi i quotidiani del giorno. Sono qua per fare domande, possibilmente quelle che fareste voi, ma anche per ascoltare le risposte, approfondire. Lo faremo, promesso, senza pregiudizi. Naturalmente su Radio 24. Il treno va. Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio. E lei sa, quando si perde, il vincitore massacra tutto, distrugge tutto, no? Questo purtroppo accade spesso, sì. Quindi noi nel 41 arrivarono gli inglesi in Africa orientale. Quindi con la battaglia di Keren, l'ultima resistenza italiana, la colonia persa. E quindi rimanemmo in 200.000 in questa sacca, però il Selassie fu veramente saggio, sì. E vi salvò. Dobbiamo la vita alla sua... le aggiungo, io l'agente marittimo ho anche una foto che, se lei mi dice dove, gliela mando, che Sua Maestà il Selassie, la prima nave lanciamissili, l'Andrea Doria, fece visita a Massaua e a il Selassie si compiacque venire a bordo. Io ero agente marittimo e ripeto, se vuole ho documenti, le mando la foto. A bordo dell'Andrea Doria l'ammiraglia lancia missili. Beh, interessante. Ma lei ha fatto anche il mercenario in un periodo della sua vita, mi pare. Ho combattuto... fatto anche il mercenario in Congo. Vede che lei ha una memoria. Beh, cioè, non è che sono quelle cose che uno poi se le dimentica subito. Quanti anni aveva quando è andato a combattere? Ne avrò. Anzi, le dico una parentesi, sto scrivendo a degli amici se hanno la collezione o riescono a reperire le edizioni del quotidiano eritreo, perché vorrei ritrovare l'inserzione dall'autorità belga che cercava mercenari, come anche sempre sul quotidiano eritreo apparve una inserzione che cercavano un dattilografo per il film Mogambo, che veniva girato in Kenya, e lì conobbi Ava Gardner, Grace Kelly e Clark Cable. Ma lei non si è negato nulla, quindi lei ha risposto a tutti e due gli annunci. È andata a fare il mercenario nel Congo, è andata a fare il figurante in un film, sì. In Kenya. E se posso dirle un aneddoto, accompagnando Ava Gardner a Nairobi, sì, che telefonava a Frank Sinatra, sì, e io non ero attratto ero giovane ragazzo, però mi disse... ebbi la fortuna di conoscere l'inglese, perché arrivò in Eritrea, si chiamava Desert Locust Department, cioè un dipartimento per le locuste, perché il disastro che portavano le cavallette era incredibile. E in mezzo a questi inglesi imparai dell'inglese. E conoscendo l'inglese mi accettarono giù in Kenya, e Ava Gardner stretta un po' di amicizia, diciamo così. Mi disse: ma Luigi, perché non viene la sera una sera sopra il nostro campo, che era su una collina? Noi invece eravamo di bassa forza a piano terra, diciamo, sotto. Dice: però devi, domani che andiamo a Nairobi ti devi comprare lo smoking. Dottor Nicoletti, fu la fortuna della mia vita, perché mi accorsi lì quanto il look, cioè la presentazione, quindi andai a cena sopra con lo smoking, perché loro la sera facevano il dinner ma mettevano tutti l'abito da sera, inclusa Grace, incluse le donne Grace Kelly. Insomma, era un bel ragazzetto, parlava bene inglese, quindi si è messo lo smoking e l'hanno accettata. Bene, lo parlavo, insomma. E in abito da sera, loro la sera facevano il dinner in abito da sera. Beh, certo, con lo smoking, come in tutti i film, vorrei vedere. E io lì, signor dottor Nicoletti, da lì, io, se vedo ancora su YouTube oggi, dove io faccio in giro come sempre, Verdone diceva, non so, lasciamo perdere cosa dice Verdone ora, villaggio, lei vede tutti i miei show su YouTube, io sono sempre con un look ineccepibile. Quando recitai a Take Me Out a Milano, fa l'attore lei, anche l'attore oltre tutti questi lavori, non professionale, mi diverto. Quindi lei ha fatto il marittimo, l'agente marittimo, sì. Ha fatto il camionista in Africa orientale, sì. Ha fatto il mercenario in Congo belga, sì. Ha fatto l'attore in Kenya. No, insomma, una vita dattilografo. Il dattilografo, beh, anche l'attore stava lì, faceva il figurante, la comparsa, sì, cosa faceva? Insomma. Comunque, ha lavorato nel cinema con Ava Gardner, con Greschelli, sì. Con Clark Gable. Guardi, cerchi su YouTube Mo Gambo, il film adesso. Mo Gambo. The new word in motion picture entertainment. Mogambo, unforgettable adventure in untamed Africa. Africa, known for centuries as the white man's graveyard. Yet into its belt and mountains went a crew of actors and technicians determined to return with the motion picture different, unlike anything ever brought to this screen. Clark Gable, in his best role since Gone with the Wind. Ava Gardner, more beautiful and more exciting than you've ever seen her. Grace Kelly, playing a part every woman secretly understands. The heat and fury of the jungle tears the veneer of civilization from these women, one from the high life of society, the other from the nightlife of New York. No holds are barred as they fall in love with a man who lives for adventure. You can be nice and sweet when you want to, can't you? How do you know? Maybe you spoke too soon. I warn you. I'm looking. I'm searching. I really am. I'll look with you for a little while. What would give her the right to say things like that? She saw us that day when we walked up on the porch. You must forget that it ever happened. It was just, well, it was nothing. You want me to forget it? That's why you changed your mind about taking us on this trip. Plus the fact that you're not in love with your husband. You mustn't say that. You are stuck, aren't you? Once and for all, you're jealous. Shouldn't you examine your own emotions in that light? Look, don't worry about me. I could be pea green with jealousy and I couldn't be hecked up any worse than I am already. It's you we want to worry about. You know, this is no Sir Galahad who loves from afar. This is a two-legged boa constrictor.

Il treno va. Ce matin mi réveille au milieu de l'océan Indien. Hier encore mon été dans le joli pays oreille. Pourtant n'a point miracle, ici moi elle est vraiment très bien. Moi la trouve mon rogaille la morue, chérie qu'elle. Il n'a pas changé, il est toujours pareil pour raconter histoire créole. Quand il cause trop vite, il est gay, à cause ça même, il est drôle. Mais fais attention, on vit pas les trolls, il n'a pas le temps de discuter. Quand il cause, tu lis, cause pas dans son dos, va courant qu'elle sourit. Monsieur Jaco, il peut dire qu'il connaît un ou. N'a point de bouc, ici il est plus gentil que ou. Sur la place chauve, nous l'a grandi à côté. Ça m'a mis fait nous de l'amitié. Signori passeggeri, che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Mogambo, the story of a love affair as adventuresome as the surroundings in which it happened. You travel along uncharted waterways on a suspenseful safari. You venture across the African veldt, alive with all manner of wild beasts. Just as the animal stampede in King Solomon's mine created a new high in screen thrills, MGM has now topped it with a blood-chilling spectacle, the Battle of the Gorillas, photographed for the first time in French Equatorial Africa. Lei ha lavorato in questo film? No, io facevo il datilografo, nel senso il regista ogni sera mi diceva, allora mi dava una copia del copione e mi diceva guardi qua, correggi questo, correggi quest'altro. E io facevo le correzioni che lui poi passava agli attori e gli attori secondo copione poi... Ecco, lo trovate, è un film del 54 di John Ford addirittura. John Ford, sì, bravo, bravo. Con sì. Ava Gardner, Claire Gable, Grace Kelly. Grace Mazzola, Kelly, bravo. Ma lei non c'è fra gli attori, però. No, io ero dattilografo. Se lei vede una scena, però, di Clark Gable che scende dalla Jeep per sparare... E si vede lei? No, è quella che John Ford mi fece correggere e che litigò con Clark Gable, perché Clark Gable voleva sparare da sopra la Jeep. Sì. Invece John Ford mi fece correggere il copione dicendo Clark Gable deve scendere per sparare e Clark Gable non voleva farlo e scoppiò un litigio tra John Ford e Clark Gable, sì. Vabbè, interessante, una grande storia, hai capito? Beh, poi allora, però qui le aggiungo un'altra cosa che è importante. Un film che è stato anche censurato perché due dei protagonisti in realtà erano marito e moglie, ma lei era adultera e quindi fecero finta che erano fratello e sorella, pensi un po'. Sì, sì, sì. E un'altra cosa, dottor Nicoletti, importante. Io accompagnavo Ava Gardner a Nairobi si chiamavano i telephone booths, dove lei ci voleva per il collegamento con l'America 1 o 2 ore e telefonava a Frank Sinatra e gli diceva in inglese: tu cretino, stupido, imbecille, perché dovevano girare da qui all'eternità, vai a parlare con Giancana. Giancana era il boss mafioso dell'epoca. Quindi era vero che Frank Sinatra aveva rapporti con la mafia, sempre aspetti, detto, ma non... Aspetti, io credevo, siccome noi facevamo un gioco che si chiamava Gincana, che era una corsa dentro i sacchi, io credevo, dico, ma chissà cosa deve fare questo dentro i sacchi, non capivo, lo capì dopo, perché dopo, leggendo la biografia, Frank Sinatra andò da Cohen e mise i piedi sul tavolo e disse: il ruolo raccomandato da Giancana, il boss mafioso, il ruolo da qui all'eternità lo faccio io, e vinse l'Oscar. E beh, cioè, sarà fatto dare un buon aiuto, si vede, evidentemente. Trovò l'aiuto giusto, no? Nel momento giusto. Vabbè, caro signore, è stata una bella chiacchierata. Vede, mi ha raccontato delle cose che l'altra volta non mi aveva detto, quindi possiamo ancora incontrarci quando e riuscirò vuole, ancora vuole. Diciamo, a strappare qualche brandello della sua avventurosa vita da ricordarmi in futuro. No, che vuol fare ancora? Guardi, la fattucchiera mi ha detto che ce n'ho ancora parecchi anni, basta che non fumo, che non bevo, e poi la terza cosa che ha detto lei. Cioè non deve... comunque, adesso non so, la fattucchiera le ha dato dei limiti abbastanza difficili, ma non fumare, non bere e non far l'amore, quindi no, e si manterrà. Non quello farlo, guardi, la fortuna ah, sì, ha detto sì. Ci sono, no, bastava un qualsiasi consiglio di amico, non c'era bisogno di dare i soldi a una fattucchiera, comunque non è che ha fatto una profezia di quelle difficili. È una battuta, dottore. Ah, ecco, ah, una battuta. Vabbè, dai, buon viaggio, signore, ci sentiamo, anche se non vuole essere chiamato signore. Comandante, prenda, la chiamerò comandante, va bene. Scusi, mi prenda sempre dal lato comico, perché a me piace... Mi piace, sì, ma non è che quello che ha raccontato sono tutte cose da ridere, però se vuole pigliamo la ridere. Buon viaggio, alla prossima, ridere, arrivederci. Arrivederci. The ending is never.